Sono le ore 19:26 di lunedì 11 marzo, una giornata triste purtroppo, perché oggi è scomparso Giuseppe Granieri, una delle menti più fertili della transizione verso il digitale, che ha segnato con le sue idee, i suoi pensieri gli ultimi 20 anni, ma anche con le sue pratiche, perché era anche uno sperimentatore, una persona che non parlava delle cose che studiava con il tipico distacco degli accademici, perché era anche un accademico, era anche qualcuno che ci giocava, perché sicuramente si divertiva, e proprio nel farlo era diventato uno dei più sottili esecratori di quell'enorme movimento di resistenza al cambiamento che si scatenò dopo i primi entusiasmi verso la novità di internet, praticamente in tutti i settori della società italiana e soprattutto nel mondo dei media che lui stesso frequentava, perché ha tenuto a lungo rubriche, mi sembra, sulla Stampa, l'Espresso, insomma era una voce ascoltata anche sui canali tradizionali, ha scritto dei libri che hanno davvero aperto uno squarcio su una realtà che si stava avvicinando, questa umanità accresciuta che oggi sperimentiamo sulla nostra pelle, nel bene e nel male. E poi era anche una persona straordinariamente divertente. Io, dopo averlo letto a lungo sul suo blog, aver letto i suoi libri, poi ho anche avuto la fortuna di conoscerlo in varie occasioni, abbiamo anche avuto degli eventi insieme, ne ricordo uno sul lago Trasimeno, dove però, come sempre, la parte più divertente non è tanto il famoso panel, ma la birra che si prende prima, le patatine, la cena con personaggi sempre un po' improbabili, perché poi nella costruzione di questi primi eventi della transizione non si capisce bene chi è l'esperto di cosa, e noi stessi ci chiedevamo se fosse giusto che fossimo stati chiamati lì, e c'era quindi molta ironia ma anche molta autoironia di questa fase un po' picaresca, anche a volte un po' scarcagnata, diciamolo, e inadeguata sotto tutti i punti di vista, che infatti poi non ha prodotto la gran parte di quei cambiamenti dirompenti che speravamo, perché l'industria ha saputo opporsi a questo cambiamento, più o meno tutte le industrie hanno saputo schivare in qualche modo o rallentare e a volte anche governare la disintermediazione digitale, e oggi ci ritroviamo con questo mondo un po' riconoscibile, triste, che non assomiglia affatto ai nostri sguardi di quell'epoca. Ma così come non si sarebbe arreso lui, credo che sia il caso davvero di non arrendersi noi, e proprio perché le sue idee sono ancora molto molto attuali, e consiglio a tutti, per esempio, di cominciare a leggere i suoi libri per chi ancora non l'avesse fatto. E intanto un grande abbraccio a tutti quelli che gli hanno voluto bene, alla sua famiglia e a tutti noi, perché ci mancherà.